Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Sono le 22:37 minuti primi di questo lunedì 11 marzo 2013. Buonasera a tutti, Blue Radio Veneto con voi. Serata speciale, Maurizio. Sì, buonasera cari ascoltatori, buonasera Gigi, serata specialissima stasera. Io sono subentro a Stefano, di solito c'è Stefano a lunedì, stasera ci sono io con te. Sì, in compagnia di Gil Facchinelli questa sera alla regia, ma soprattutto a Maurizio, chi abbiamo con noi questa sera? È un gruppo di un certo peso, Quanti siete? 2, 4, 5, peso alla 5, 5 pesi praticamente, cosa dici? Sì, abbiamo con noi i... Siki Tikis. È una parola che apparentemente è semplice, ma non è semplice. Forse poi a dirlo non è così semplice, no? No, non troppo, forse. Allora li presentiamo, Maurizio. Sì, vai. Allora diamo il benvenuto ad Alessandro Spedicati. Ciao a tutti. Detto il diavolo, poi ci dirai come mai ti hanno soprannominato il diavolo. È una storia lunga, più tardi la raccontiamo. Poi abbiamo Gianmarco Diana. Ciao a tutti. Detto Jimmy. Enrico Trudu, Zico. Ciao. Sergio Lasi. Ciao a tutti. E poi mancherebbe un altro comunque. No, in realtà il qui presente è Fabio, è il nostro manager. No, ma non sale sul palco. No, assolutamente. Ce lo siamo perso. Pazzo Raschio. Ah, eccolo là. Certo, vero. Secondo me sono troppo preparati. Oggi rischiamo. Maurizio. Bene. Diamo via al nostro live. Diamo via al nostro live che termina alle 24 ed oltre, quindi sarà una cosa molto bella, molto musicale. Musica, la musica con la M maiuscola, sempre. È la parola più importante. Il progetto, come nasce, come si sviluppa, da dove è nato praticamente, l'idea? Allora, l'idea nasce da un precedente gruppo che io e Alessandro avevamo insieme, i Cani da Rapina, sempre della serie nomi divertenti. Esattamente. Esatto, e che citano quasi sempre. Quando si è sciolto quel gruppo, nell'estate del 99 più o meno, anzi nella primavera 2000, del 99, 2000. Sì. 2000. Ah, già 2000 era, ok, ogni volta faccio questo errore, del 2000 quindi. E non è praticamente il motivo per cui si è sciolto il precedente gruppo, è lo stesso per cui sono nati i Siki Tikis, ovvero la voglia di suonare musica che partisse dalle colonne sonore, dal suono delle colonne sonore italiane. Ecco, tu mi hai detto una cosa molto bella. Come hai avuto l'idea di fare il discorso delle colonne sonore? Adesso me la puoi spiegare live, sì. Me l'avevi spiegata prima a microfono spento. Chiaro. Sì, allora, è l'unione di due fattori fondamentalmente. Da una parte una certa voracità per il cinema delle ore notturne sulle televisioni private, che mi portò in un certo anno a vedere quasi 200 film, credo, in un anno. Complimenti. Sì, anche mia madre me lo disse. questo portò, io mi catalogai questi film con un occhio di particolare riguardo alle musiche, perché succedeva che spesso anche film di fattura indecente avessero musiche firmate per esempio da Ennio Morricone o Armando Trovajoli, quindi alcuni dei migliori compositori. Quindi questo l'avete fatto 12 anni fa? Sì, in tempi non sospetti, prima che la moda della musica da colonna sonora in qualche modo esplodesse. Certo. E di rimando, quindi un gioco era quello dei film e un altro rimando era quello di alcuni artisti in particolare americani che ci piacevano molto, due per tutti, John Zorn e Mike Patton, che in qualche modo avevano appunto per primi sottolineato il valore di quella musica e anche indicato una strada per poterne partire da quella musica e riarrangiarla e personalizzarla in qualche modo. Ma una cosa interessante, colonne sonore a 360 gradi, non in determinati generi, vero? È così? No, sì, certo, in quel momento poi eravamo in quel momento avevamo un repertorio fatto quasi esclusivamente di cover più qualche pezzo originale nostro, sempre strumentale, sempre nell'ottica di musica da sonorizzazione. Però sì, pescavamo nel poliziesco, nella commedia sexy, nel comico, nel film d'autore, per esempio le musiche di Nino Rota per Fellini, eccetera. Che difficoltà c'era? Beh, la difficoltà era sicuramente di passare da musica scritta e arrangiata e registrata per organici orchestrali a una formazione che comprendeva tastiere, voce, basso e batteria. Questa è stata la grande sfida e in qualche modo il laboratorio, cioè il lavoro su quel tipo di musiche, è stato poi fondamentale per riarrivare nei Siki Tikis a scrivere canzoni, a scrivere musica forti di quindi gli è servito molto. Assolutamente sì, a parte il piacere di suonare quella roba è stato anche molto utile. Ecco, il piacere di suonare quelle robe. Poi a un certo periodo di tempo siamo arrivati al 2000, avete avuto un contatto importantissimo con il leader di Subsonica e con l'etichetta di Subsonica. L'incontro con Casacci è stato È stato in realtà voluto, ma anche mistico. Perché, bello mistico, dimmi perché mistico. Perché Casacci era presente a Cagliari al nostro primo concerto in assoluto della nostra vita. Come band, praticamente. Sì, la nascita dei Sikitikis, lui ha assistito a questa nascita. E immediatamente dopo il concerto ci disse che effettivamente c'era del potenziale, per quanto il gruppo apparisse musicalmente molto acerbo, non avevamo un'esperienza live che si potesse definire tale, non avevamo mai fatto un disco in vita nostra, neanche con le nostre precedenti band, quindi in qualche modo, o comunque non eravamo mai andati oltre il demo tape, insomma, degli classico, anni 90, esatto, quel classico. Però lui vide qualcosa in noi, che ancora mi chiedo cosa, ha visto qualcosa, decise di farci crescere, portandoci a frequentare comunque il più possibile, farci assorbire l'atmosfera di quello che era lo studio allora fondamentale della Torino Underground, che era Casa Sonica, esatto. Poi divenuta etichetta, oserei dire quasi per fare il disco dei Sikitikis. Ah, bene, questa è una cosa importante. Sì, c'è stato proprio, perché poi ovviamente nel tempo si è consolidata un'amicizia fortissima con Max, e la voglia di lavorare in maniera totalmente indipendente fra amici ha portato alla fondazione di Casa Sonica, che poi ha compreso anche altri progetti. Poi l'avventura è finita e noi ci siamo trovati a dover camminare, tra virgolette, con le nostre gambe, e anche lì, insomma, c'è stato un momento in cui ci siamo messi in discussione. Sì, ma avete superato questo momento di discussione, assolutamente. Per forza, nel senso, come abbiamo attraversato, esattamente come si devono attraversare tutte le crisi, cioè uscirne più forti in qualche modo. Ma uscire più forti come? Suonando dappertutto, continuando a suonare, quello è il discorso. Noi abbiamo fatto del live la nostra ragione di vita in qualche modo. Andiamo, credo che, ora non lo so individuare nello specifico, ma in questi giorni compiremo il 400° concerto. Quello è importante. Sì. 400 concerti sono tanti, sì. Tantissimi. Sì, e questo prima di tutto perché è necessario, e poi perché ovviamente oggi la musica non si può se non vivere sul palco, non ha senso. Voglio dire, Battisti si poteva permettere di fare i dischi e di non fare i concerti. Ma lui aveva paura del pubblico. Del pubblico, sì. Dicevano che aveva paura del pubblico. Sì, in realtà si poteva permettere di non aver paura del pubblico. Sono d'accordo, si poteva permettere. Lui ha fatto solo una esibizione a Sanremo, vabbè, e poi basta, esatto, non ha più fatto esatto altro praticamente. Però 80, come si fa a fare 80 concerti in un anno? Solo in un anno 80 concerti. E si sta in furgone un ecco, sacco perfetto di tempo. Si vive il furgone esattamente come i marinai vivono la barca. Io ho sempre detto che fra i marinai e i musicisti ci sono molte più affinità. Grandissima di quello che dicono. Se solo si fanno dei traslati, ovvero la nave e il furgone, l'asfalto e la strada, e i posti dove si arriva a suonare sono i porti. Per il resto non cambia niente. È identico. Le dinamiche sono le stesse. E lo dice uno che ha fatto anche il marinaio nella vita. Quindi perfetto. Allora Maurizio, io volevo ricordarvi anche una cosa importante per chi sta ascoltando la nostra emittente Blu Radio Veneto, che potete anche interagire con il gruppo sulla pagina Facebook Blu Radio Veneto Rockway e fate le domande che volete. Siamo qui per rispondere a qualsiasi vostra curiosità. Ma direi di passare anche un po', di fare ascoltare la musica del gruppo. Cosa facciamo ascoltare? Cosa diciamo anzi di questa canzone, Diavolo? Intanto non so cosa dobbiamo Tiramisù ascoltare. Interessante, perché Tiramisù è un esempio, uno dei primi esempi di coautorato fra i Sikitikis e autori esterni che appartengono alla scena, diciamo, delle nuove band cagliaritane della nostra città, persone con cui abbiamo un ottimo rapporto umano e con cui appunto ci piace aprirci a delle collaborazioni. Sono i due autori, Daniele Garzia e Pierandrea Marras, due coautori degli Slim Fit, e da questa collaborazione, da un'idea loro musicale, da un testo poi nostro, da un riarrangiamento nostro del brano, viene fuori Tiramisù. Certo, e diciamo anche che sono tutte le canzoni che ascolteremo stasera appartengono all'ultimo vostro lavoro. Sì, Le Belle Cose. Allora ascoltiamoci Tiramisù. penso troppo quando sono stanco, quando non dico niente, non c'entri niente, quando non mi sopporti. SMS 346 23 20 033. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qua, è una serata particolare, Maurizio, perché oggi c'è un compleanno speciale del nostro direttore artistico Alberto Prisco. E che facciamo tantissimi auguri ad Alberto. Volevamo rintracciarlo telefonicamente, però purtroppo non riusciamo a raggiungerlo, quindi li facciamo così, via in forma, Maurizio? Sì, in forma live. Facciamo alla Marilyn Monroe, posso alla permettermelo? Sì, benissimo. Vai Marilyn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Director. Happy birthday to you. Bravo, mitico, bravo. Diavolo. Auguri. Auguri Alberto. Alberto è il nostro direttore artistico che ha voluto fortissimamente la band stasera qua. Parliamo dell'arrangiamento di questo pezzo che a me interessa. Ah, di tiramisù. Esatto, di tiramisù. Qualcuno dice naif. Naif perché? Ah, lo è. Sì, lo è nella misura in cui stiamo cercando di. Abbiamo cercato con le belle cose di fare un'esperienza musicale diretta, di tipo diretto. In realtà. Poi se si va a vedere le stratificazioni dell'arrangiamento. Naif è solo di facciata, sì. Assolutamente di facciata. Intanto se si va a vedere le stratificazioni dell'arrangiamento è tutt'altro che semplice in realtà. E questo è merito anche del nostro produttore attuale che è Emanuele Fusaroli, noto anche Max Stirner, già produttore di tutta una serie di grandi un vero guru dell'indie. Esatto. E ormai non solo, perché l'ultimo disco che ha prodotto di Nada è un disco straordinario. Certo. C'è interazione fra batteria acustica e batteria elettronica, ci sono i bassi riversati attraverso i pedalini di sintetizzatore, c'è la ricerca di una profondità sonora molto anglosassone. Infatti la morte, proprio il cacio sui maccheroni di questo disco, a morte sua, come avrebbero detto a Roma, è stato il mastering negli studi di Abbey Road. Vedi. Che effettivamente avete toccato con mano, cosa vuol dire? Che effettivamente ha dato una crescita, cioè si capisce che quello è veramente la Serie A, è la Champions League della musica. Della musica. Sì, quando cosa si respira quando uno va a Abbey Road, secondo te? Si respira storia della musica. Ecco, tu entri, basta dare un'occhiata alla prima parete che ti trovi di fronte, con una serie di foto e ritratti appesi da lasciarti senza. No, non c'è artista di fama mondiale che ha fatto la storia della musica che non sia passata da quegli studi. È vero. Pazzesco. E ne ha lasciato testimonianza anche noi. Infatti, ogni tanto andavo in giro e chiedevo al tipo: c'era uno spazio, qui mettete la nostra foto, magari a fianco a Bono, Vox e ai Radiohead. No? Ecco, qualcuno ha parlato anche di Radiohead nei meandri della vostra musica. Posso dire una cosa? Ah, beh, questo pezzo ricordava alla lontana un po' gli Hills. Questa è una bellissima. Io, secondo me, se io parlo. Sì. Ha ricordato un po' gli Hills, non totalmente, però in qualche momento, in qualche meandro. Ora, sai che, ora che l'hai detto, il ritornello, il gioco del ritornello. Quel pianettino che c'è sopra, che ricorda gli Hills. Me lo rifai un'altra volta, sì. Il pianettino. Fallo un'ottava in alto che ce l'ho. Esatto, ci ricorda qualcosa che arriva da Blinking Lights and Another Revelation degli Hills. Eh sì, qualcosina sì. Effettivamente. Ma è bello secondo me. In questo caso non è solo una reminiscenza, certo. Perché noi è nei nostri ascolti, però ci sono stati altri casi, soprattutto nei primi dischi in cui ci siamo ispirati ben più, addirittura per Fuga dal deserto del Tiki. Sentiamo i primi dischi. Il nostro primo album, sì. Che ha avuto un premio non da poco alle May. Beh sì, era andato molto rivelazione bene, il premio di rivelazione, sì, disco rivelazione, sì, era stato molto bello. Dimmi. No, dicevo che per quel disco addirittura fu preso come riferimento per il suono anche un disco degli Hills, sì. Fra gli altri, quindi è vero, coglie però. Ma qui io ho capito, voglio farvi un complimento, dei complimenti diffusi a tutti, qui abbiamo capito, ed è cosa rara, non dice, ed è cosa rara, andare in una radio dove c'è gente che capisce di musica. Grazie. È un grande complimento. Grazie a voi. Grazie, grazie a voi, siete venuti qua stasera, perché... A noi amiamo una cosa fondamentale, il live, suonare è la più bella cosa che esista, esatto, suonare, è vero. Perché suonare si rompono tutte le barriere, si sente, sì, sì, sì. Si sente, si passa, si attraversa, la musica è musica, con la M maiuscola, qualsiasi latitudine si prenda. Secondo me. Assolutamente sì, siamo d'accordo, non si può non essere d'accordo. Diciamo anche la vostra discografia, ragazzi, che inizia dal 2005 se non sbaglio. Sì, 2005 è l'esordio, Fuga dal deserto del Tiki. Per Casa Sonica, il successivo album B, Il mondo è una giungla per chi non vede al di là degli alberi, abbiamo sempre sottotitolo. Un po' Vettmulliano come titolo, alla Vettmulliano. Sì, non mai, è vero. Leggermente lungo, come si conviene. Travolti nel solito destino. Il duro mare d'agosto, a proposito di mare, di Sardegna, che si potrebbe. Mitico Maurizio. Quello uscì sempre per Casa Sonica, comunque il secondo album, nel 2008, quindi a distanza di 3 anni dal primo. Poi si è conclusa l'avventura Casa Sonica e abbiamo iniziato quella invece con la Infecta di Emanuele Fusaroli. C'è stato anche un po' un cambiamento qui, vero? Sì, lì arriva il momento in cui da un modo di scrivere e di arrangiare più legato, oltre che al mondo delle colonne sonore, anche ai generi come il rock and roll, un certo riferimento ai 60s, però quelli sporchi, non proprio quelli pop o quelli troppo puliti. Poi ripetere... Quelli sporchi non troppo puliti. Adesso sì, poi perché dopo invece sono subentrati. Puoi allargare il momento il discorso. Sì, no, nel senso, in quel momento il richiamo era più a un suono anni 60, quello rozzo, quello sporco, quello dei garage, infatti il cosiddetto garage rock. Bello. Aveva a che fare con noi, sai, non abbiamo chitarra, però siamo sempre stati un gruppo parecchio elettrico, dall'impatto parecchio elettrico dal vivo, soprattutto nei primi tempi. Questo perché io uso un basso distorto e suono a metà tra un basso e una chitarra. Ecco, quelli erano i riferimenti: la surf music, il garage rock, il rock and roll vero e proprio, il rhythm and blues nero, quello originale, sudato e rozzo. Ok. Microfono spenti, cari ascoltatori. Jim ha citato i Corvi. I Corvi erano il garage rock degli anni 60. Sì, assolutamente. C'è poco da fare. Gente come il leader dei Corvi che usava un corvo. Sulla spalla. Look pazzesco, fuzz a go go. Insomma, voglio dire, era assolutamente garage, che lo chiamavano beat in Italia. Sì, ma era un garage assolutamente fuori. Esattamente. Erano fuori. Esattamente. Giustamente fuori, secondo me. Assolutamente sì. Meravigliosamente fuori. Meravigliosamente. Mancano ancora due CD. Mancano ancora due CD, appunto, quindi nel 2010 esce Dischi Fuori Moda, che in qualche modo è l'inizio della nostra collaborazione con Infecta ed Emanuele Fusaroli come produttore artistico della nostra musica. È una collaborazione molto fitta dal punto di vista musicale, letterario e quant'altro, un grandissimo personaggio Manu, e poi l'ultimo, appunto, Le Belle Cose, la nostra ultima fatica, come si suol dire, che ha fatto il botto. Ma questo non so se possiamo dirlo così, ancora presto per dirlo. Per ora ha movimentato, ha smosso. Sì, per ora possiamo dire che il dato più interessante di questo disco, non disco, perché vi ricordo che è stato presentato così, perché cosa succede? Per un anno intero le prime canzoni, le prime 3-4 canzoni estratte da questo album hanno in qualche modo vissuto di vita propria sul web, quindi venivano caricate e fatte girare attraverso dei piccoli videoclip più o meno professionali, nel senso alcuni sono stati girati più o meno hi-fi, più o meno hi-fi o lo-fi, esatto. Alcuni semplicemente sono stati prodotti do it yourself in casa perché? Da me stesso. Perché questa scelta? Beh, qua vorrei che dai, vai, dimmi. La scelta è perché in questo momento il mercato discografico attraversa una situazione di tale confusione, di tale diciamo aleggia il senso del fallimento di un sistema discografico, c'è poco da fare. Questo anche con dei dati, dei numeri assurdi, per esempio calo del 75% del fatturato negli ultimi 10 anni, numeri che fanno impressione e che hanno avuto anche conseguenze molto brutte nel mondo del lavoro discografico. Ora, quando ci si ritrova in un contesto che è come un elefante che sta cercando il suo cimitero, qualcuno deve, di solito questa cosa avviene sotto, nell'underground appunto, si deve muovere per trovare dei nuovi sistemi per sopravvivere. I Sicky Tikis hanno in qualche modo provato a sperimentare proprio coi numeri quello che stava succedendo, fino a scoprire che dare un disco in download gratuito può essere più conveniente che stamparlo e venderlo. Ah, bene. Che è un paradosso commerciale che fino adesso si sta dimostrando assolutamente una scommessa assolutamente vinta da parte nostra. Abbiamo raggiunto quasi 40.000 download. Quindi siamo disco di platino siamo virtuale. Disco di platino praticamente. Siamo download di platino. Questa è nuova comunque. Sì, non esiste, bisognerebbe crearla questo premio, questo riconoscimento. Unito ad altri accorgimenti che si possono prendere in questo campo, di cui vorrei parlare un po', di cui forse non vorrei non parliamo, parlare, non parliamo, non... Potrebbe essere veramente la nuova chiave per la diffusione della musica. Oggi abbiamo praticamente questo sharing diffuso e anche selvaggio per certi versi, fra la legalità e l'illegalità. Abbiamo il download a pagamento e quello ad offerta, abbiamo il crowdfunding, abbiamo, come si chiama questi ultimi che con l'abbonamento ti fanno sentire un catalogo di Spotify eccetera eccetera. Noi non ci siamo legati profondamente a niente e lasciandoci aperte le porte a tutto, a seconda di quelle che sono le nostre necessità, facendo una squadra il più possibile agile e cercando di fare come dire, di sfangare e di portarla, insomma, di portarla a casa. Esatto. Allora ragazzi, io devo leggere un messaggio di, penso arrivi da Firenze, TT Baruffetti. Allora scrive: volevo salutare i Sicky Tikis, in realtà non ho domande. A Firenze io e le mie coinquiline abbiamo cantato "Il nostro divano non vuole più parlare di te" nel salotto del nostro piccolo appartamento in mille occasioni. E ho pianto, cantando, piove deserto. Meno male che adesso la crisi è economica e non più sentimentale. Meno male che voi fate pensare le belle cose adesso. Un grazie per la vostra, anzi scusate, ma visto che ce la regalate, nostra musica. Ma che bello. Fantastico. Cioè, pelle d'oca, grazie a Titti. Grazie, davvero. Io direi adesso, ragazzi, che possiamo far sentire il vostro live. Cosa ci proponete? Vi proponiamo la title track, come si vuol dire, dice, ogni tanto un pizzico di esterofilia, vero Mauri? Serve. La title track, Le Belle Cose, dall'album Le Belle Cose, del tour Le Belle Cose. Qualcuno non ama le belle cose e ci vuole dividere perché insieme siamo pericolosi. Perché l'amore è pericoloso, perché le belle cose sono la morte dei cattivi pensieri, e i cattivi pensieri portano denaro nelle tasche delle brutte persone. Sì, delle brutte persone. Na na na na ai na na na na, delle brutte persone. Na na na na ai na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Ci vuole dividere perché insieme siamo pericolosi. Perché l'amore è pericoloso, perché le belle cose sono la morte dei cattivi pensieri, e i cattivi pensieri portano denaro nelle tasche delle brutte persone. Sì, delle brutte persone, sì sì, sì delle brutte persone. Pum. Na na na na ai na na na na, delle brutte persone. Na na na na ai na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Perché le belle cose sono la morte dei cattivi pensieri, e i cattivi pensieri portano denaro nelle tasche delle brutte persone. Sì, delle brutte persone. Sì, delle brutte persone. Ya na na na na na na na na na na na na. Ma quando mai che ci pigliano in giro? Che cosa fai se ti pigliano per il culo? E quando mai che ti pigliano in giro? Che cosa fai se ci pigliano per il culo? E quando mai che ci pigliano in giro? Che cosa fai se ti pigliano per il culo? Grazie. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ecco, Alberto mi ha appena mandato un messaggio via Facebook e vi ringrazio a tutti, ragazzi. Grazie. Ecco, però io volevo chiedervi un attimo di questo testo, che è un po' particolare, secondo me. Diavolo. È nato in maniera veramente, direi, rocambolesca, come avrebbe detto Bruno Pizzul. Nasce in maniera rocambolesca. Dovete sapere che Ale è un imitatore ai limiti da essere assunto. Non l'abbiamo capito. Sì. Cosa accade? A un certo punto la fidanzata di Jimmy posta fa un post su Facebook. Io commento questo post, rileggo questo post e dico: però carino questo post, me lo segno da una parte. Era interamente il testo di questa canzone, che è rimasto intonso, è rimasto così, è stato soltanto adattato metricamente a un andamento, diciamo, a pedale, come si diceva un tempo, su questo accordo di Mi settima, che va a citare il mondo in Mi settima di Celentano. Esattamente. È vero, di Celentaniana memoria. Celentaniana memoria. Gli hai pagato i diritti d'autore. Ma non se ne parla, è un altro pezzo. non devo. Esattamente. Pezzo molto bello musicalmente. Qualcuno ha scritto anche che è un afrobeat trascinato da incedere funky. Che ne pensate? Bellissima definizione, interessante. Ovviamente qui state sentendo delle versioni, certo, acustiche, assolutamente. Tutto ciò che noi di cui di solito noi ci siamo privati, ovvero la sei corde, ecco. Invece in questi casi diventa la vera protagonista, diciamo. Però se ascolti la versione registrata, c'è un lavoro sulla sezione ritmica che rimanda assolutamente il basso, che suona cinque note in loop, che non cambiano mai per tutta la canzone, la batteria che ha queste sincopi e questi richiami ha una ritmicità, una poliritmicità fortemente africana, quindi ci sta, secondo me. Ma dal punto di vista mi piace poliritmicità fortemente africana. Non so neanche come ho fatto a dirlo, fai tu. Ma scheletricamente all'inizio com'era musicalmente? Com'è nato? Ah no, vabbè, no, i brani. Allora, i nostri brani, una cosa di cui sono contento, hanno tutti, soprattutto negli ultimi due dischi, una forma cantautorale che permette di suonarli con la chitarra e la voce semplicemente. Perfetto. Come si vede. Di solito però si scrive ormai col computer, con i software per, diciamo, la scrittura. Noi scriviamo già i provini. Ah, ho capito. Quindi si parte già quando l'idea è una bozza che tendenzialmente è nelle memo vocali del telefono. Esatto. Ok, che viene in un attimo così. Certo. Dopodiché si inizia proprio a sviluppare il brano già in arrangiamento nei software, che poi verranno, lo stesso progetto verrà utilizzato e ampliato e migliorato e diventerà il disco. Quindi è alla fase embrionale di quello che poi sentiremo alla fine. Quante volte l'avete provato live questo pezzo? L'avete fatto sentire? Allora, in realtà stiamo provando poco. Nel senso che... Ma l'avete fatto sentire al pubblico prima? No, mai. Mai. No, mai. No. Prima che fosse edito non l'avevamo mai fatto. In realtà siamo abbastanza refrattari a far sentire i nostri pezzi prima. E c'è un motivo. Dimmi perché chi invece è il contrario? Perché, perché oggi c'è chi proprio gli testa e ne fa. Però per esempio l'idea che un brano che oggi può essere ripreso e messo per esempio su YouTube in tempo praticamente reale, Sì. possa arrivare in una versione non definitiva, ancora perfettibile, magari col testo che ha ancora qualche lacuna, eccetera eccetera. Insomma, mi piace l'idea di arrivare al pubblico d'impatto con la sicurezza di avere un prodotto che ci soddisfa, noi in prima persona. Poi mi aggancio anch'io per un aneddoto che spiega ulteriormente questa cosa qua. Come ti dicevo prima, alcuni di questi brani, quattro in particolare, sono stati editi prima che uscisse il disco vero e proprio. Esattamente. In uno in particolare, La mia piccola rivoluzione, che forse è un po' il brano portafortuna di questo disco, nel senso che è il brano con cui siamo andati a quelli che è il calcio, sì, in Rai, è il brano che tendenzialmente gli uffici stampa, le radio scelgono per la promozione. È un brano di forte presa, diciamo, certo. Forse anche il brano più pop del disco. È quello che disco. Ha avuto più click anche del disco. Esatto. Cosa succede? La prima versione che noi postammo su YouTube aveva un certo testo. Quella che è finita poi sul disco ha lo stesso testo e cambia esclusivamente l'ultima frase. Quella però è una chicca. Aspetta, dove voglio arrivare? Dai. Che c'è gente che si era già affezionata alla versione col precedente testo che non butta giù la modifica che è stata fatta. Ho capito. Questo no, per dirti quanto la gente, una volta che la sente dal vivo, o comunque tu gli dai la canzone, continuando a citare per esempio Titti, visto che la musica è della nostra gente più che nostra, ancor di più così. Cioè, se io te l'ho già data, te l'ho data su YouTube oppure te l'ho fatta sentire dal vivo, è già tua. E allora dopo non la puoi più toccare. Certo. Ho capito, sì. Chiaramente sì. C'è chi ragiona in modo diverso però su questo punto di vista. Assolutamente. Ma spesso, io ho chiesto ad altri musicisti quando vengono qua ad esibirsi, c'è chi proprio ama far sentire subito il pezzo, continuamente il pezzo, e poi inciderlo dopo. Ci sono addirittura dei musicisti che, tipo Gazzè, che fanno pezzi dal vivo senza averli mai provati, cioè tipo si girano, si guardano, lo facciamo, non l'avevano mai provato. E hai detto una cosa giustissima, e l'ho sentito l'altro giorno in un'intervista a Rai Stereo Notte, ha proprio parlato di quello che tu hai detto. Sì, sì, quando il disco nuovo l'ha presentato proprio facendo così, direttamente là. Poi non è detto, magari domani. Noi siamo bravissimi a cambiare idea. Per tutto. Su quello. Siamo professionisti di cambiare idea. Salutiamo anche Enzo Mosca, il nostro fotografo occasionale. Che ringraziamo, perché sappiamo essere un nostro. Cioè, ci ha voluto fortemente anche lui. Esattamente. Diablo, ti manca uno strumento. Dipende, quale? Il mio fischietto. Io in realtà non ce l'ho qua, però ce l'ho sempre appresso. Cioè, tipo in valigia ce l'ho sempre. Il fischietto tritonale. Maurizio, cosa dici? Io proporrei un altro pezzo live, perché live è la cosa più bella che esista. Facciamo la mia a proposito, esatto. E anche qui parleremo del testo dopo. Ok. Ho bisogno di una piccola rivoluzione. Ho bisogno di una piccola rivoluzione, più un concetto chiaro, fresco e buono come il pane. Devo ritrovare quella sensazione che mi fa sentire un po' meno beep. Ho bisogno di una rivoluzione. No, no, fermo, fermo, dobbiamo riprendere, dobbiamo riprendere. Perché mi sono sentito in colpa. Vero? Perché quando mi sono reso conto che scrivo troppe parolacce nei testi, mi sono sentito in colpa. Cosa faccio? Mi autorizzate a dire. È un testo, mi autorizzate a dire la parola cogliotto. È una tragedia, è una tragedia. Okay. Una tragedia. No, perché è importante che. Perché è all'interno del contesto. Sì, del diciamo testo. Che la licenza poetica dovrebbe consentire per il significato di. Diciamo poglione. Possiamo dire poglione. Poglione. Poglione. Un grosso poglio. Okay. Un grosso poglio. Che è un grosso poglio. Ok. Bene. Da capo. Però un po' più veloce di BPM. Ho bisogno di una piccola rivoluzione, di un concetto chiaro, fresco e buono come il pane. Devo ritrovare quella sensazione che mi fa sentire un po' meno poglione. Cerco un complice per la rivoluzione, a partire dall'idea di prima colazione, per toccare i vertici dell'universo, riemerso attraverso una rima e un verso. Non ho bisogno di nulla in particolare, fare il diario di una vita con un cellulare, e di non pretendere troppo da me stesso, e di un bacio sulla bocca proprio adesso. E vorrei che fossi tu a portarmi lontano. Io vorrei che fossi tu a tenermi per mano. Ho un concetto per cambiare tutto il mondo, forse come te lo spiego non è chiaro, e apparentemente sei poco profondo, e non vorrei passare per un visionario, ma vorrei che fossi tu a portarmi lontano. Io vorrei che fossi tu a tenermi per mano. Se non ci fossi tu, mi basterebbe il pensiero. Io vorrei ci fossi tu, per capirmi davvero. Ho bisogno di sentire che ci sei. Ho bisogno di sentire che ci sei. Ho bisogno di sentire che ci sei. Ho bisogno di sentire che ci sei. Ho bisogno di una piccola rivoluzione, senza slogan, senza armi e senza barricate, ma con un pensiero di condivisione, e svegliarci la mattina con il sole. E vorrei che fossi tu a portarmi lontano. Io vorrei ci fossi tu per capirmi davvero. Così mi basteresti tu per sentirmi leggero e ritornerebbe il blu se piovessero euro. Ecco la mia piccola rivoluzione. Rock Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Allora, rieccoci qui, parliamo di questo testo. Ci sono, sì, ci sono, eccomi qua. Questo è un testo che possiamo definire in qualche modo la chiave per interpretare nella maniera corretta tutti gli altri testi delle belle cose. Nel senso che ovviamente diciamo che il messaggio è abbastanza palese e utilizza poche metafore. L'idea è che se si vuole cambiare qualcosa non si può pretendere che il mondo cambi intorno a noi se noi non proviamo a cambiare noi stessi, fondamentalmente. E non necessariamente con delle grossissime azioni, ma partendo da cose molto piccole, appunto, per esempio dal modo di fare la prima colazione, per dirne una, fino a cose, fino al nostro pensiero, alla nostra visione della vita e dell'universo. Nasce la cosa di cui siamo contenti è che questo testo, più di altri, forse più di qualsiasi altro, qualunque altro testo dei Sicky Tickies, chiude veramente un cerchio, cioè è un testo, è una un'opera letteraria completa, cioè fa quello che dovrebbe fare una canzone. Purtroppo su 60 una è poca, però intanto è arrivata, cioè, voglio dire, me ne rendo conto, però diciamo come autore, tecnicamente, dico, ha i crismi della canzone vera e propria. Cioè. Quindi, secondo voi, questa forza trascinante di questo testo vi ha aiutato un attimino a farvi conoscere anche da questo punto di vista? Posso rispondere io, che non sono l'autore? Io credo di sì, nel senso che in un periodo come quello che... Nel senso che è universale, è un testo esatto, universale. Come infatti io, da quel punto di vista, li scrive tutti lui i testi, io non collaboro alla parte dei testi, quindi mi sento più una ascoltatore, è uno che recepisce come un qualsiasi ascoltatore, appunto, questa genere di cose. Non so cosa stia innescando. Secondo me c'è qualche cuffia alta. Sì, probabilmente sì, abbassare un po'. Effettivamente sono molto alto. Ok. Secondo me, nei tempi che stiamo vivendo, con la parola crisi sulla bocca di tutti ogni due minuti, una cosa e l'altra, un testo con un approccio di questo tipo, con delle immagini così luminose e con un messaggio così positivo, non poteva non attaccare. Il tutto legato a un pezzo che ha una forma quasi cantilenata. Spero nell'accezione non negativa del termine, certo. che ha dato adito a paragoni di musicisti come Povia, sì, per esempio. Sì, ci hanno dato del Povia. Che tra l'altro non sapevo fosse una parolaccia. Infatti, non si è ancora capito se non è in senso positivo o negativo. Non lo è. Comunque, ci hanno dato del Povia. Sei un Povia. Sai perché? Inconsciamente ricorda il ritornello di quel famoso pezzo di Povia. I bambini fanno. Esattamente. Può darsi. Ecco. Per quel motivo. Secondo me questa reminiscenza, questo piccolo piccolo collegamento. Fatto sta che forse mi dispiace per chi, ma non mi offende per niente. C'è questo ritornello, e il ritornello che entra è molto accattivante, entra immediatamente. Sì, anche sì. Questo si parla. Il ritornello è fondamentale. La chiave di volta di questo pezzo è il ritornello. Il pop è il ritornello. Questo è un pezzo fondamentalmente pop. C'è poco assolutamente sì. Riveduto e corretto col gioco delle tastiere, chiaramente, o gioco di altre cose. Visto che tu sei tastierista, adesso mi dici un qualcosina di questo pezzo. Perché così? Vai, zitto. Beh, vabbè, in realtà il pezzo sembra semplice. Come e non è semplice, prima. Ma nessun pezzo vostro è semplice. Di facciata può essere semplice. Questo può essere un pezzo semplice, accattivante, entra immediatamente. Ma come l'avete fatto? Quanto sacrificio, quanto sudore avete speso per farlo? Guarda, in realtà molto spesso capita che si arriva in sala, appunto, si provano gli arrangiamenti, su delle idee, come si diceva prima, una chitarra, sì, certo. Una voce, e diciamo che il meccanismo è quello di mettere ognuno il proprio background, quindi diciamo che ognuno pesca da quello che è il proprio bagaglio mentale, cercando di trovare delle sonorità o dei piccoli riff che ci possono stare, quindi in questo modo noi riusciamo a creare un prodotto che è un prodotto pop, però che in realtà, se uno proprio sviscera bene, guarda in vari piani, ci si rende conto che ci sono più influenze, magari anche un'influenza che non ti aspetti, però votata a una causa pop. Ma gioca il minimalismo qua, o no? Bravo, è una chiave importante di questo disco. Secondo me c'è una chiave minimale. Nel senso che hai detto bene, togliere piuttosto che aggiungere è esatto. Stato uno dei paradigmi di questo disco. Tu devi considerare che i primi due dischi dei Sicky Tickies, Fuga e B, sono invece due dischi molto pomposi, nel senso epici. Esatto, epici nell'accezione anni 70 del termine, cioè c'è un arrangiamento parecchio stratificato e pomposo e c'era un forte ricorso anche alla quasi al barocco, al prog. Sì, esatto, barocco in quel senso una forma quasi barocca dell'uso saputo delle tastiere, del basso nel secondo disco in particolare. Quindi dopo due dischi così pieni, dischi da 200 tracce a brano, capito? Per capirci, siamo invece passati a less is best, cioè togliere piuttosto che aggiungere. Dischi fuori moda è stato il primo passo, l'esperimento non è riuscito completamente perché è un disco di passaggio, è un disco di transizione tra i primi e i secondi Sicky Tickets, possiamo dire. Laddove secondo me nelle belle cose, me lo dico da solo anche se non sono un critico, questo esperimento secondo me è riuscito, cioè certo. Per quanto ci riguarda, questo è il nostro disco pop definitivo fondamentalmente ed è la tracklist più azzeccata secondo me di uno dei dischi dei Sicky Tickets. Ho capito. Cioè la tracklist che cammina meglio dall'inizio alla fine. Tu hai citato il discorso di minimale, allora visto che il vostro maestro di cerimonie, il vostro punto di riferimento è Beck, Beck è minimale al 100% quando vuole, quando vuole. Sempre quando vuoi. Si può partire da quello e poi si può sviluppare. Dimmi. Beh, dimmi. In realtà la figata è che è sempre minimale e ci si rende conto che anche quando riempie tantissimo, e non solo Beck, ma in generale la caratteristica dei grandi, esatto. Quando, anche quando veramente il suono è tanto pieno, ci si rende conto che ad analizzarlo ci sono pochi elementi a reggerlo. Il minimalismo, io ne sono assolutamente convinto, ne sono un io sono un templare del minimalismo, e probabilmente in futuro si andrà a esasperare addirittura questo, questa filosofia. Ma il minimalismo gioca un ruolo importante sul ritornello accattivante di questo pezzo. È vero. Secondo me. Io il discorso di Povia nasce da quello, secondo me. È vero, è vero. A grandi linee, ad autostrade diverse. Sì. Però, purtroppo, c'è questo punto di riferimento, questo addentellato. Ma, guarda, io volevo aggiungere un'altra cosa. Io credo che in questo disco, più che negli altri, noi siamo riusciti, almeno spero, e noi lo crediamo e siamo soddisfatti, a trovare forse il connubio quasi definitivo tra la scrittura italiana che ci piace, fondamentalmente quella di cantautori come Dalla, Battisti, Gaetano, Bennato, Gaetano anche quello, certo. Rino Gaetano, certo, Bennato, certo. Anche il primo Bennato, che in questo disco viene spesso tolto fuori in alcune canzoni, con tutta una serie di invece di artisti fondamentali che in qualche modo hanno influenzato, influenzano i Sicky Tickets e credo tutti i gruppi del mondo. Questo disco è pieno di riferimenti culturali e musicali di vasta gamma che all'orecchio più smaliziato probabilmente arrivano, ad altri non arrivano, anche magari per questioni anagrafiche. Viene citato il pop inglese, americano degli ultimi 40-50 anni, viene citata la letteratura, viene citato il riferimento invece alla realtà contemporanea che viviamo, dei social network, eccetera. Cioè, da quel punto di vista, qui in questo disco crediamo di essere riusciti ad arrivare a questa sorta di connubio, ok? Dal punto di vista numerico, qual è il vostro disco? Che numero è questo? Il quarto. Di solito si dice che il terzo album è l'album della maturità, sarà il quarto allora. Probabilmente. Noi siamo sempre un po' in ritardo, quindi ci può stare. Per quello. Allora, due messaggi per voi ragazzi. Giulia Fiorentini, non so, magari scrivete anche da dove ci mandate il messaggio, interessante. Allora, in versione acustica con la chitarra, Le belle cose, fa molto country, made in Willie Nilsson. Grazie, grazie. Poi Marcello Merucci e i Boys, quindi vi saluta. Ciao frate. Ciao frate. vi chiede, ma quando venite a Roma? Presto. Presto. Presto. Presto, stiamo sistemando. Presto. Stiamo cercando, purtroppo è saltata il concerto di Roma che sarebbe dovuto essere il 2 marzo. Ci scusiamo con i romani in ascolto che avrebbero voluto assistere, ma promettiamo di venire a Roma il prima possibile, che è una delle città a cui siamo più legati, diciamo, per mille motivi. Allora passiamo al CD, va bene? Ci diamo un altro pezzo del CD. Sì, sì. Allora ci ascoltiamo Aria. Per una volta sola. c'è qualcosa che ci unirà per un'ultima volta. Non sarà un filo, sarà l'amore o sarà la bomba. Se avessi finto un po' di più, se fossi stato perfido, ti avrei distrutta, ti avrei disintegrata. Wave, Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Ecco, io ascoltando un po' la vostra musica in questi giorni, cercando di conoscere e approfondire un po' anche le vostre parole, io l'ho definita la musica delle anime libere. Wow, ma che meraviglia è! Ci piace. La musica delle anime libere. Delle anime libere. In effetti, per certi versi, lo siamo. Ascoltando anche i vostri pensieri, il vostro modo non solo musicale, ma quello che è dentro di voi. Questo è quello che ho pensato. Che bello. Sì. Maurizio. Poi, insomma, la libertà è una cosa difficile. Penso però. Proprio di sì. Io mi vorrei concentrarmi su questo pezzo, questo Aria. Aria. Aria era un pezzo di, vi ricordate, molti anni fa, uno che ha giocato coi figli delle stelle. Alan Sorrento. Sì, aveva scritto un album meraviglioso, si chiamava Aria. Non mi ricordavo che avesse... Che Alan avesse fatto un disco. Aveva fatto un disco prog. Ok. E lui era aveva una sorella che si chiama Jane Sorrenti, che aveva un gruppo strapitoso, sì, strapitoso, si chiama Saint Just, che faceva il prog, ma prog di grandissimo valore. Sì. E Aria è un po' di ambient, c'è un po' di ambient, di peregrinazioni che vanno da quei momenti e arrivano al 2013, caro tastierista, visto che ho davanti te stasera. In effetti, io so che tu ami i gong, tu ami quel genere musicale, il soft machine. È il mio problema, è la mia croce. Il Canterbury, croce delizia. Sono canterburiano. Che bello, che male c'è. Neanche diciamo il prog. Diciamo il prog che sta poi... parlando Enrico, altrimenti. Sì, Enrico, sì, tastierista. Sì. Fa bene alla salute il prog. Oh, il Canterbury, scusami. Sì, perché il Karama. Prog purtroppo è diventato, ha un'accezione spesso negativa. No. Cioè, dici? Diciamo che dopo l'overdose, diciamo così, di tastiere, di gruppi, c'è stata un po' proprio una reazione che è stata quella di escludere per tanti anni le tastiere quasi dai gruppi. Io sì, mi ricordo che quando ho iniziato a suonare, cioè il tastierista era quello, ma non sai suonare qualcos'altro, perché cioè il gruppo con la tastiera non ci piace. Perché c'era proprio una sorta di idiosincrasia. Esattamente. Poi adesso è ritornato il discorso, però. È ritornato, poi noi comunque, quindi rimane questo fondo che poi è la mia passione, però... sempre votato al servizio di un approccio molto più pop. Sì, cioè, questo è un pezzo pop, però a queste reminiscenze, secondo me, io le penso, mi è venuto in mente Aria, perché Aria secondo me è un pezzo, è un disco meraviglioso di Alan Sorrenti. Quando Alan Sorrenti i soldi non li faceva, li faceva con Figlio delle Stelle, purtroppo. Beh, beato per lui, però Aria era un pezzo, era un disco veramente strepitoso. C'era Sean Phillips che suonava, vi ricordate Sean Phillips? Musicista grandissimo dell'area napoletana. Tu hai citato Edoardo Bennato, quindi l'epoca è quella. Sì. Esattamente. Quindi, no, conosciamo questo disco, lo procureremo, lo ascolteremo. Sì, e poi si trova anche in linea economica, quindi lo puoi trovare. Perfetto. Visto che va bene anche quello. No, questo volevo parlare. Sì, queste derivazioni che arrivano, che si aggiungono al discorso di adesso, del sintetizzatore, le tastiere, lo so, ma le tastiere fatte da voi, tastiere pop, come tu hai sottolineato. Tastiere pop, però sempre con una forte ricerca, un forte amore per il vintage. Poi alla fine sono i suoni che senti sono suoni comunque che nascono da strumenti originali. Certo. E quindi c'è anche poi quel gusto della ricerca proprio del suono, che potrebbe sembrare banalmente una tastiera elettronica con dei preset. In realtà c'è sempre quel gusto, però ripeto, in un... E per quello amiamo la band, sti Ghisi. Perché li amiamo? Perché... fanno le cose con un certo impegno, con una certa passione, secondo me. Giocano, non giocano nel senso positivo, giocano nel senso positivo, nel senso che costruiscono il suono. Bisogna costruire il suono, secondo me. In quel senso noi dedichiamo tantissimo alla costruzione del suono. Appunto. E soprattutto la figata è quello che diceva all'inizio Jimmy, cioè noi non ci siamo buttati sui palchi, in realtà siamo stati chiusi degli anni, intendo almeno 3 o 4, praticamente in sala prove, a imparare a fare quello che dovevamo fare. E questa fare. È una cosa bellissima, secondo me. Quindi importante, non lo fa nessuno. Faccio una nota polemica su questo, ecco, questa è una cosa bellissima che fanno in pochi, perché esatto. Cosa succede oggi? Complice una capacità mai avuta prima di potersi esporre anche agli inizi, cioè parliamoci chiaro, noi siamo quasi tutti dei quarantenni dentro questa band, tranne Sergio, il nostro giovane, che giovincello, che è il new entry, lui 10 in mano, esatto. Però quindi noi siamo proprio di primo pelo. Tutti noi abbiamo cominciato intorno ai 15-16 anni. Ai tempi cosa succede? C'era qualche rivista musicale, c'era qualche catalogo di dischi che dovevi con tanta fatica e passione andare a trovare, ti ordinavi i tuoi bei vinili, i tuoi bei CD, li aspettavi a casa, andavi, cercavi, era veramente tutta farina del tuo sacco quello che succedeva. Idem per quanto riguarda l'esposizione e la presentazione di un progetto musicale. Si stava in sala prove, ci si preparava per bene, al primo concorso per giovani emergenti, alla prima cosa che la situazione nel locale, ti presentavi e cercavi di suonare, ma c'era sempre, almeno per quanto riguarda i gruppi che ho avuto io da sempre, sin da ragazzino, una certa voglia di fare le cose per bene, quindi voglio dire, io non salgo impreparato sul palco, ma cerco di prepararmi. Ora, senza generalizzare, ovviamente i tempi attuali, faccio riferimento ai social network, a pagine come il quasi defunto MySpace e l'attuale Spotify, per dire tutte le piattaforme musicali, e video e quant'altro, la faccio breve, oggi presentarsi a un pubblico, anche se ti sei chiuso in sala prove l'altro giorno, è non solo la cosa più ovvia che tutti fanno, ma una cosa che in qualche modo sta abbassando la qualità media dei gruppi musicali. Diciamo che tendenzialmente oggi un gruppo di ventenni è capace di presentarsi con un video pazzesco senza saper suonare. Eh sì, questo è vero. E queste sono cose a cui che bisogna, insomma, monitorare, ok? Andiamo a sottolineare una cosa importante del vostro ultimo lavoro, che si può scaricare almeno fino a pochi giorni fa. Non so se è cambiata la cosa. Ecco, volete dirlo voi, che è una cosa importante. Le belle cose. È insolita anche. Le belle cose si può trovare in download gratuito e integrale e eterno, cioè fino a quando esisterà il server come concetto. Nunc et semper, direi, esatto. Già che siamo... E il link si può trovare sia nella nostra homepage www.sikitikis.com. Ricordiamo che Sikitikis si scrive con le K e che è un nome palindromo, quindi si legge da una parte e dall'altra uguale se è scritto correttamente. Che non è sardo. No, assolutamente no. Dopo, se vuoi, te lo spiego il nome. Il nostro media partner in questa operazione è stato Rockit, www.rockit.it. Andando a cercare la pagina dei Sikitikis c'è il link per il download gratuito. Un'altra cosa importante che volevo segnalare a chi ascolta, parliamo anche dei videoclip, che sono importantissimi, e voi ne avete fatti abbastanza, ne avete fatti una decina circa, sì, ma magari gli più. Ultimi, Ecco, forse di più, sì. Ma magari gli ultimi, quelli più importanti. Beh, gli ultimi, diciamo, ci fermiamo al disco nuovo. Sì, sì. Allora, per quanto anche riguarda... dischi fuori moda, diciamo. Sì, diciamo dischi fuori moda, perché, diciamo, dell'ultimo disco in realtà è stato girato un unico videoclip ufficiale, che è quello delle Belle Cose, girato insieme al collettivo Shibuya, collettivo cagliaritano Shibuya, con cui già avevamo girato altri due video. Voglio dormire con te, che è un video che non possiamo non citare perché è un po' il video da cui tutto è cominciato, nel senso è un video che ha raggiunto un numero di click esagerato in un tempo molto breve e che in qualche modo in quel momento è diventato il biglietto da visita dei Siki Tikis molto più di altri tradizionali mezzi di promozione della band. Quindi Shibuya girò quel video con un'idea semplicissima a costo praticamente zero, un video che è piaciuto tantissimo perché è effettivamente un video molto particolare, dove non c'è niente ma c'è tutto. Curiosità, fu copiato di sana pianta e quasi praticamente citato. In carta carbone da un neomelodico napoletano. Sì, perfetto. Di cui non faremo il nome. Come no, Granatino, grande, io lo saluto. Volevo dire, uè, che fai? Uè, uè. E comunque, quindi detto ciò, mi sono perso, tanto per cambiare io mi no, beh, poi è arrivata una una prima collaborazione con degli artisti di video arte o di animazione, per cui è uscito il video di Col cuore in gola. Esatto. Che è realizzato da un ragazzino giovane ma talentuosissimo di Los Angeles, italo-americano, che si chiama Randy Rosario, che ha girato sto video e che ha adattato a delle immagini che aveva di un suo lungometraggio al clip di Col cuore in gola, e ora siamo in crowdfunding per una raccolta fondi per girare un video sempre di video arte relativo al brano Soli, che se volete fra un po' vi facciamo anche sentire. Sì, lo sentiamo subito. Esatto, ecco. E con l'artista sarda Cladinè, che anche lì video totalmente sperimentale, girato in green screen con l'applicazione sia dell'utilizzo della carta pesta sia dell'immagine grafica, insomma... Ci stiamo mettendo i piedi in un mondo di video arte che tende a superare il videoclip. Poi abbiamo un gran bel progetto in atto con lo IED di Cagliari, l'Istituto Europeo di Design, in cui alcuni studenti stanno sviluppando un video multimediale di un nostro brano. E, insomma, è una sorpresa, però insomma è una cosa importante, perché proprio vogliamo anche sul videoclip, come abbiamo fatto sulla distribuzione dei dischi, vogliamo provare a fare un passo avanti. Ok, cosa Maurizio, dici? Andiamo a suonare, anche perché abbiamo 20 minuti a disposizione. Vai, circa. Vi facciamo sentire Soli. Soli, che è un pezzo che abbiamo scelto come pezzo lancio, che è irradiato continuamente per un mese nella nostra emittente. È un pezzo a noi, io e Alberto Pisco, è piaciuto molto, quindi adesso lo sentiamo live, assolutamente. A voi ragazzi. Dovremmo stare soli, soli, soli, noi dovremmo stare soli, io e te. Ci siamo fatti in quattro per tornare un po' bambini, l'estate è lunga, la scuola è lontana, e facendo il bagno nudi diamo un senso a tutto il resto. È un'ora che ci penso, sorrido e non so neanche il perché. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace. Ti ho vista sdraiata sul mio letto e ho deciso che mi piace, perché sei bella, perché sei bella, perché sei bella. Dovremmo stare soli, soli, soli, noi dovremmo stare soli. Dovremmo stare soli e rivelarci nelle parti più segrete ed intime. Dovremmo stare soli sulla spiaggia deserta a guardare le stelle, le barche attraccare, le barche salvare, noi fermi a guardare il sole sorgere, i pesci parlare, gli uccelli ascoltare, i nostri pensieri e i nostri silenzi. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace sempre di più. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace ogni giorno di più. E chi l'avrebbe detto mai che questo piccolo fuoco avrebbe bruciato tutto il mondo? Va bene, va bene, va bene, anche se non è niente, perché l'amore sembra a volte troppo sconveniente. anche se il mondo si nasconde dentro un social network, anche se non è vero che assomiglia ad Audrey Hepburn, anche se certe cose viste da vicino rivelano qualcosa che non avresti immaginato mai. Magari è falso che gli uomini sono tutti uguali, forse sei tu che sei sempre la stessa. Noi non abbiamo bisogno di valigie, di biglietti e né di abiti vistosi e né di porte né di tetti. Abbiamo visto esplodere milioni di colori e per conoscerci ci siamo sdraiati in mezzo ai fiori. Tornino le anime e i tempi per cantare, le favole da leggere e quelle da inventare, che si facciano respiri più lunghi di così e che si torni a far l'amore anche oltre il venerdì, che gli abbracci siano stretti intorno al nostro corpo e che ogni letto vuoto diventi un nuovo porto. E proviamo ad imparare una nuova geografia che ci faccia riconoscere la saggezza e la follia, ma che solo al primo sguardo ti ho vista camminare ed ho capito subito dove volevi andare. Le barche attraccare, le barche salvare, noi fermi a guardare il sole sorgere, i pesci parlare, gli uccelli ascoltare i nostri pensieri e i nostri silenzi e rivelarci nelle parti più segrete ed intime sulla spiaggia deserta a guardare le stelle. Dovremmo stare soli, soli, soli, noi dovremmo stare soli, io e te. Ah, super classifica show? Magari, non esistono più i programmi di musica. Blu Radio Veneto. Blu Radio Veneto. Rock Wave. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qua, ricordiamo anche che questa canzone è stata cantata in coppia da Alessandro Stedicati e Gianmarco Diana. No, in questo momento sì. Ah, adesso? In questo adesso, momento adesso. Sì. Okay. Sì, sì, sì, no. Sì. E Jimmy è una seconda voce straordinaria, addirittura secondo me sarebbe anche una prima voce straordinaria perché ha un timbro molto interessante. Nel disco invece l'abbiamo cantata con una ragazza... cantante reggae. Sì, una cantante reggae che si chiama Sista Namely, che ha una voce strepitosa e che insomma abbiamo voluto inserire in questo... È un reggae camuffato però questo, non è propriamente un reggae. Questo non è un reggae. Lei di solito è bella roots. Cioè... Bella roots, però, sì, sì. Dimmi. Permettimi di dire che questo sicuramente non è un pezzo reggae, ci mancherebbe, però ha un impianto, un'atmosfera fortemente giamaicana. Sì, sono d'accordo. Cioè, se tu lo suonassi così... La melodia è fortemente giamaicana, cioè l'appoggio, il ritornello. Molte nostre melodie hanno una matrice giamaicana. Di movimento. Melodie di movimento, cioè musica reggae è assolutamente di movimento. La vostra musica è di movimento, secondo me. Ringraziamo anche il nostro batterista, mini batterista stasera, che gioca col tamburello e l'ovetto, vero? Sì. Esatto. Bisogna fare anche questo, il rumore, cioè il ritmo si fa con l'ovetto e il tamburello. C'è poco da fare, se non c'è la possibilità di portare. Ma secondo me era più giusto rumore. Pochi. Rumore, ma il rumore è bello. Pochi, è bello. Pochi sono in grado di. Pochi batteristi si possono permettere di arrivare e fare un pattern con un ovetto e un tamburello. Sergio è uno dei pochi che lo può fare. Beh, dava ritmo perfetto. Vabbè, cioè, non giochiamo, assolutamente. È un gran batterista. Come ragazzi, voi state facendo anche tantissimi concerti, come si parlava prima, ne avete fatto uno pochi giorni fa a Roncade. Eravamo a Roncade. Come andate? Va bene, poi abbiamo condiviso il palco con i Rumatera, che sono un gruppo, insomma, molto famoso, veneto, molto, molto, molto potente. E devo dire, abbiamo trovato un ottimo pubblico. C'è stata anche un'ottima reazione, per dire, hanno comprato un sacco di dischi. C'è stata molta partecipazione. Ci auguriamo di tornare, infatti, comunque in Veneto prima possibile. Beh, magari anche a Padova, chissà. Assolutamente. Ma magari. Sì. A proposito di date, che date avete adesso da fare? Adesso chiudiamo questo primo giro di marzo con altre 5 date. Partiamo questo giovedì al Chats Club di Bologna. venerdì saremo al Borderline di Pisa e sabato al Kalinka di Carpi, sabato 16. Poi c'è uno stacco di una settimana e l'ultimo giro prevede il weekend del 29-30 marzo, il weekend di Pasqua, il 29 a Milano al Live Forum e il 30 a Torino Spazio 211. Spazio importante, Spazio 211. Assolutamente sì. Abbiamo già avuto modo di suonarci diverse volte. L'ultimo concerto è stato memorabile, molto uno bello, dei concerti sì. più belli di sempre dei Sick Tickets. Ci aspettiamo grandi cose, infatti. Dunque, adesso abbiamo circa un quarto d'ora, però cosa abbiamo in scaletta? Un altro pezzo da disco, forse? Se vogliamo, sì, abbiamo un altro pezzo da disco. Ma mettiamo su un pezzo da disco. Allora, è già pronto, quando volete possiamo anche partire. Lo mettiamo subito e dopo ne parliamo, ok? Vai. Rock Wave, l'onda del rock. Rock Wave Live. Eccoci qui, ancora 10 minuti circa con i Sick Tickets. Ragazzi, allora, questi testi, c'è una collaborazione tra di voi? Decide uno e poi gli altri fanno la musica? Come funziona? Allora, tendenzialmente i testi vengono scritti da me. Però ci sono. Questo è un bel esempio, è il tu di. Esatto. Però ci sono dei punti. Ci sono dei, diciamo, dei, in qualche modo delle, dei momenti, delle lacune che possono arrivare dalla prima stesura del testo, che vengono sviluppati in una sorta di brainstorming generale, in cui tutti ci mettiamo con lo schermo davanti, con le parole che si vedono belle grandi, e iniziamo a lavorare sul senso del brano. Però tendenzialmente si parte da un'ossatura che già esiste, o comunque che già è stata scritta in fase di scrittura del brano. Allora, 30 secondi, dicasi 30 secondi, caro tastierista, guardami un secondo, 30 secondi, scusate la ripetizione, per citare, mi devo alzare in piedi, Who's Next e Bubba O'Reilly. Forza, citami Who's Next e Bubba O'Reilly, che è la citazione massima di questo pezzo iniziale. No, ti sta chiedendo di suonarla. No? Purtroppo. Allora, no, parliamoci chiaro. Non la possiamo fare. Esattamente. No, no, esattamente. Allora, perché hai citato, hai ripreso, hai omaggiato gli Who? Perché siamo appassionati degli Who tutti anche quanti. Anche io, devo stare in piedi adesso. Proprio in questo pezzo l'abbiamo detto proprio sboronamente, cioè non undercover, proprio subito, sì, all'inizio citiamo gli Who. Ah, se lo merita. Che bello, se lo merita. Posso subentrare? Allora, questa è tu, secondo me, è un esempio paradigmatico di appunto una serie di citazioni espresse, non solo musicali, vedi l'arpeggiatore, ricordiamo che è un arpeggiatore elettronico che Pete Townshend programmò da solo per quanto riguarda gli Who, esatto. E ti ricordo che occupava un'intera parete, quindi c'è poco da suonarlo su questa tastierina. Ok, però per esempio nel testo viene citata Penny Lane dei Beatles, sì. Ma anche il coro dei il Beatles, coro il riferama era la cover di Dizzy Miss Lizzy dei Beatles, esatto. Piuttosto che il ritornello, che invece ha un'attitudine quasi smithiana, sì, come melodia. In tutto questo però un testo ai limiti del delirio, in cui semplicemente, partendo da una posizione molto ironica, io e Diablo, nel senso che io e Diablo tra le altre cose facciamo anche i DJ selector, e quindi è quasi autironica, siccome più volte, sai, ci sono i tuoi estimatori ma ci sono anche i tuoi denigratori, quindi della serie, ma che cosa ti metti a fare i dischi, non sai fare manco il DJ, ma hai rovinato la festa, capito? E quindi questa cosa gioca un pochino con questa roba qui. È un po' uno dei brani autoironici, esatto. 30 secondi Diablo per l'impressionismo, sì. Tu hai una bella intervista, ha parlato di impressionismo, cioè il collegamento tra il impressionismo, quindi pittorico del Novecento francese, e impressionismo della vostra molto terra. Semplice, guardando questo documentario sugli impressionisti francesi mi sono reso conto che c'erano dei punti in comune con la nostra attitudine, con il nostro atteggiamento nella musica, ovvero dietro l'apparente superficialità o comunque la ricerca del grande pubblico attraverso un qualcosa di diretto e chiaro, c'era in realtà un'intenzione di rottura di schemi di quello che era il modo tradizionale di fare pittura nella Francia della Parigi della fine dell'Ottocento, e grazie al lavoro degli impressionisti noi abbiamo un documento di come è cambiata la società parigina diciamo parallelamente alla rivoluzione industriale, e noi cerchiamo con i nostri testi di mettere una lente su quello che accade nella nostra società e ai nostri coetanei. Certo. Mica Baobao Micio Micio, bellissima, è stata una spiegazione splendida, vero Gigi? Mi ha chiesto di essere rapido, potevamo fare rapido una e conciso, come si deve fare. Abbiamo ancora 5 minuti. Allora, cosa facciamo? Come vogliamo impegnarli? Noi li impegniamo chiaramente con un live, però adesso dovete ridire tutti i vostri connotati musicali, il sito, le date che dovete fare, eccetera, eccetera. Io volevo fare una piccolissima parentesi veloce, farvi la mia playlist. Posso? Vai. Certo. La mia play Siki. Cuore matto. Hey. Tsunami. Voglio dormire con te. Tiffany, che è bellissima. Avere 30 anni. Che l'abbiamo ripetuta e riascoltata. È simpaticissima. Le belle cose. E la mia piccola rivoluzione, che sono fantastiche per il testo. E ecco, questa poi soli l'ultima che ho messo È una super playlist. Se devo far trovare il pelo nell'uovo, ti devo dire, recuperati i primi due dischi, e c'è robetta interessante anche in quelli. È che non sono riuscito a recuperarmi i due dischi. Diciamo che è piuttosto difficile recuperarli. Secondo me, seppelliti nei vostri archivi, sì, sono anche quelli. Sì, ci sono. È possibile. Il giovane Mosca ci fa segno di sì. Vai, Maurizio, vai con la tua domanda. Sì, adesso. Ripetiamo le date insieme. Allora, il mondo del web dei Siki Tikis si articola nella roccaforte www.sikitikis.com e poi nei social network. Siamo presenti su Twitter, quindi /SikiTikis, facebook.com/SikiTikis, è molto semplice trovarci. Il nostro canale YouTube, Le Belle Cose TV, Che altro direi? Insomma, diciamo, questi sono quelli principali. Esatto. Ad ogni modo, noi interagiamo praticamente costantemente. Abbiamo un rapporto con le persone che seguono la nostra musica molto sereno e molto tranquillo. Anche quando ci chiedono le cose più assurde, noi lo facciamo, rispondiamo sempre in maniera molto serena. Vi invitiamo quindi, soprattutto, ad andare su Facebook a cliccare mi piace e a ricevere i nostri aggiornamenti. Ripetiamo le date: quindi velocissime. Giovedì a Bologna, Chats Club. Venerdì a Pisa, Borderline. Sabato al Kalinka, Carpi. Questo per 14, 15 e 16 marzo, e poi 29 marzo Milano Live Forum, 30 marzo Torino Spazio 200. Grande finale, A Torino. Sembra nato per fare questa roba. E poi d'estate ve ne farete altri, chiaramente. D'estate... Beh, sì, partiremo già da maggio. Oggi abbiamo già chiuso roba a maggio, non si può dire. Ah, perfetto. Ecco, prima abbiamo ancora circa un minuto e mezzo, due al massimo, prima dei saluti e proporre l'ultimo live. Ho letto questa cosa qua, ne abbiamo fatto un piccolo accenno prima, sì. Diavolo. Hai detto, siamo noi che dobbiamo capire a cosa si deve rinunciare. Quali sono le sovrastrutture da abbattere, qual è la direzione che deve prendere la nostra strada. Tu come individui prima e come collettività poi. Tu mi fai delle domande bellissime, nel senso che ci vorrebbero puntate intere solo per rispondere a queste domande. È così. È così. Un minuto. No, è così. Semplicemente, come hai letto tu, confermo quello che ho detto, lo sottoscrivo. Noi dobbiamo capire che c'è nella nostra vita, ci sono dei grandi eccessi, ci sono tante cose a cui possiamo rinunciare, a cui in questo momento ci sembra di non poter rinunciare e che sono veramente nocive nella nostra vita. Però il brutto è che io non posso dire quali sono, perché ognuno di noi in realtà la deve cercare, ma in realtà ognuno di noi sa benissimo di che cosa sta parlando, insomma. Bene, allora Maurizio, passiamo purtroppo, devo dire, abbiamo i saluti, finito. Ma proprio con il cuore, purtroppo. Ma diamo l'appuntamento alla band, quando passerà un'altra volta per Padova, di allargare il tempo, di andare un po' più avanti. Ce lo auguriamo, diciamo che torneremo per ripartire da dove interrompiamo. Esatto. Esattamente. Molto bene. Molto e siamo, bene. Siamo stati benissimo e vi ringraziamo fin d'ora per l'accoglienza e l'ospitalità. Grazie ovviamente a chi ha scritto, grazie a tutti i ragazzi che ci stanno ascoltando, insomma grazie. Grazie Padova. Direi che per chiudere voglio dormire con te, allora, visto che è nella tua psichi playlist, potrebbe andare bene. Perfetto ragazzi, grazie di cuore, grazie buonanotte a tutti e grazie a tutti gli ascoltatori di Blu Radio Veneto. Grazie e buonanotte a tutti. Non vuol più parlare di te. Proviamo a dormire più forte che possiamo. Proviamo a capire se tutto si aggiusta col solo pensiero. Voglio vedere quanto resistiamo. Nel buio, in silenzio, in mutande, non puoi fare finta di niente, nemmeno un po', nemmeno un po', nemmeno un po', nemmeno un po'. Se ci teniamo per mano, possiamo di nuovo volare. In questo universo c'è tutto lo spazio per noi. La terra vista dall'alto ci farà girare la testa. E tu non avrai più paura. E vorrai farti guardare nuda ancora, ancora. Oh. Domani buttiamo il divano, però adesso dormiamo ancora un po'. Le belle cose.